Soprattutto sarà Roberto Romano che comincerà con il suo contributo Organizzazione del lavoro e sviluppo tecnologico negli ultracesti dell'Ombalta fino alla prima guerra mondiale. Poi i telescopoli hanno una versione tradotta in tedesco. Guten Morgen, meine Damen und Herren, Version des Papers von Roberto Romano et al. Alles klar, ja. So dass Roberto Romano jetzt sein Referat auf Italienisch vortragen wird und dann wird man sehen. Ich würde vorschlagen, dass Sie dann nur, wenn Sie Verständnisfragen haben, direkt hinterher fragen. Ansonsten verschiebt man die Diskussion bis hinter das Paper von Alain de Werf. Dunque, solo se ci sono domande che si riferiscono alla comprensione del testo, si faranno subito dopo. Poi la discussione la faremo dopo il paper di Alain de Werf, mettiamo tutte e due insieme, per una discussione un po' più approfondita dopo. Va bene? Grazie. Ecco, io vorrei premettere e chiarire due cose. Intanto l'argomento preciso della relazione è evoluzione tecnologica e organizzazione del lavoro nell'industria cotoniera italiana dal 61 al 14, non su tutta l'industria tessile, anche se molti problemi naturalmente sono comuni tra i vari settori tessili che si sono sviluppati in Italia, che poi in pratica i principali sono appunto la seta e il cotone. Ecco, la seconda premessa che è doverosa è che appunto io non ho una specifica competenza sui problemi dell'evoluzione tecnologica e organizzazione del lavoro, non mi sono occupato specificatamente di questi problemi, no? Mi sono occupato e problemi di imprese, di imprenditori cotonieri, o di problemi generali del settore. Quindi quello che dirò va inteso soprattutto come suggerimenti di interpretazione, no? Se voglio posso tradurre questa premessa. Sì. Roberto Romano sagt sozusagen als Einleitung, dass sich hier ganz bewusst auf die Baumwollindustrie beschränkt hat, für den Zeitraum 1860 bis 1914. Und die Beispiele aus der lombardischen Baumwollindustrie nimmt. Zweitens, dass zwar diesen Sektor in den letzten Jahren ausführlich studiert hat, aber untersucht hat, aber dass er nicht Spezialist ist für Probleme der Arbeitsorganisation und des technischen Fortschritts. Das ist also, wenn man so will, nur ein Aspekt dessen, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Bene. Allora, per brevità. Io tralascio di rielencare i sei livelli di evoluzione tecnologica e organizzativa rintracciabili nella storia dell'industria cotoniera italiana dall'unità alla prima guerra mondiale. Questi sei livelli sono contenuti nel riassunto della relazione che vi è stato già distribuito. Sempre per brevità, eviterò di ripetere le considerazioni generali esposte nel citato riassunto. Passo subito invece all'esame dei due casi concreti di imprese cotoniere, che mi pare illustrino molto bene la presenza nell'industrializzazione cotoniera di caratteri in un certo senso ancora primitivi. La parola primitivo è naturalmente da intendersi in senso relativo, relativamente cioè alla contemporanea esperienza di altri paesi più avanzati, quali l'Inghilterra ad esempio. Per l'Italia, infatti, il sorgere del cotonificio rappresentò un fenomeno in ogni caso progressivo e di avanguardia. Anzi, questo settore fu il primo settore nell'industrializzazione italiana ad avvicinarsi ai modelli classici della rivoluzione industriale. Ciò non toglie però che il ritardo con cui si sviluppò in Italia una potente industria cotoniera fece sì che da noi si dovessero affrontare problemi di fondo che altrove erano già stati superati. Il primo esempio si riferisce al cotonificio Caprotti, posto sul fiume Lambro ad Albiate Brianza, quindi nella zona della Brianza. Questa impresa, su cui qualche anno fa ho scritto appunto un volume, fu fondata attorno al 1830 e funzionò fino al 1868 adottando il sistema della tessitura a mano e a domicilio. Salvo un piccolo numero di speciali telai a mano accentrati presso la sede della ditta o presso alcune tenute agricole dei Caprotti. Anche parte della lavorazione preliminare, cioè l'incannatura, operazione preliminare della tessitura naturalmente, veniva eseguita presso la sede. Dopo aver costruito un ampio stabilimento nel 1867, a partire dal 1868, la Caprotti iniziò ad introdurvi telai meccanici, mossi da forza motrice a vapore. Nel 1872, cioè 5 anni dopo questa introduzione dei telai meccanici, la fabbrica di Albiate contava ormai 180 telai meccanici. A prima vista, dunque, si è di fronte a un tipico caso di salto tecnologico, organizzativo ed economico. Dei mercanti imprenditori si trasformano in moderni imprenditori industriali e un'arcaica manifattura decentrata diventa una fabbrica accentrata e meccanizzata. La forza del progresso sembra davvero inarrestabile, tale da consentire un facile superamento di tutti gli stadi dell'evoluzione economica. Il progresso sembra quasi inevitabile e la risposta naturale ai limiti propri dei vecchi modi di produzione. Ed effettivamente, questo è vero, il sistema di lavorazione a domicilio creava non pochi problemi ai Caprotti. In primo luogo, la difficoltà di coordinare un ciclo produttivo che era disperso e disorganico. Infatti, una volta acquistato il filato, i Caprotti dovevano inviarlo alle tintorie. Il filato tinto tornava poi alla ditta e dalla ditta veniva distribuito alle incannatrici a domicilio, che restituivano a loro volta alla Caprotti il filato in spole. Queste ultime, cioè le spole, venivano consegnate ai tessitori a domicilio, che dal canto loro, una volta eseguita la tessitura, consegnavano le pezze gregge alla Caprotti. A questo punto la ditta affidava le pezze ad altre imprese per le operazioni finali, come l'apparecchiatura. Riottenute le pezze così preparate, la Caprotti poteva finalmente metterle in vendita. Quindi un ciclo estremamente complicato e disorganico. Se vuoi io do due fasi di spiegazione. Was er hier erklärt, ist nicht genau das, was hat nicht mit den allgemeinen Überlegungen zu tun, die hier in der Übersetzung drin sind, sondern es ist faktisch eine Fallstudie. Das Unternehmen Caprotti, das er vor ein paar Jahren untersucht hat und darüber auch publiziert hat, er schildert also, wie dieses Unternehmen zwischen ungefähr 1830 und 1867, 68 praktisch als Verlag funktioniert. Es wird also praktisch alles ausgegeben, mit Ausnahme weniger Handwerksstühle, die zentralisiert sind. Und er schildert also das komplizierte Verfahren, wie also wie beim klassischen Verleger. Ja, das praktisch zur Färberei geht, dann wieder zum Verleger, dann geht es zu den Spinnerinnen, Bitte? Ja, dass diese Organisation sich ja genauer hat, nur so viel, nicht das Ganze wiederholen, sondern was ist zentralisiert? Was ist in Werkstätten vom Unternehmer? Das interessiert, das habe ich nicht ganz gut verstanden. Fallfärben? Nein, das werden nicht. Auch Färben? Nein. Lui vorrebbe sapere che a quello stadio che dura fino al 67-68, no? Quale parte della produzione sia centralizzata? Praticamente niente, salvo il coordinamento. No, ci sono alcuni telai speciali a mano. E poi una parte di appunto di questa operazione preliminare che è l'incannatura, una parte. L'incannatura, io non so come lo svolgimento del filo dalla dal fuso. Per la preparazione al telaio, la preparazione per. Sostanzialmente. Dopo la tessitura, il finimento non è fatto. No. Viene fatto bene. Ziemlich grobe Zeige, ja? Dunque la merce, il prodotto era abbastanza grezzo, non era di alta qualità in quell'epoca lì, quello che vendevano. No, non era di alta qualità. Era piuttosto per basso consumo. Per i contadini, quasi tutte le industrie italiane producevano quei vestiti per i contadini. Entsprechend dem relativ niedrigen Durchschnittseinkommen, ne? Posso? Vai avanti. Anche dal lato della manodopera le cose non erano meno complicate. I contadini operai a domicilio, cioè contadini linetta operai a domicilio, erano sì retribuiti molto poco, ma i loro strettissimi legami con la terra li rendevano lavoratori estremamente instabili e discontinui. Quando fervevano i lavori agricoli, abbandonavano il telaio e facevano di conseguenza crollare il livello di produzione della caprotte. Allora la scelta della meccanizzazione appare razionale e tesa alla ricerca di una maggiore efficienza produttiva e organizzativa. La realtà storica quotidiana è tuttavia molto più complicata di un astratto e razionale criterio di convenienza economica. Ciò che dovrebbe essere realizzato, cioè l'investimento innovativo e l'innovazione tecnologica e organizzativa, non sempre viene realizzato facilmente e integralmente. E addirittura può dare all'inizio risultati negativi e imprevedibili. Osserviamo l'esperienza dei caprotti. Innanzitutto va detto che questi imprenditori in un primo tempo pensarono di adibire il nuovo stabilimento per metà alla tessitura a mano e per metà alla tessitura meccanica. È vero che nel giro di qualche anno i telai a mano scomparvero dalla nuova fabbrica, ma è comunque significativo che i caprotti prevedessero un accostamento ibrido di tessitura meccanica e manifattura accentrata. Un fatto che sottolinea la profonda incertezza di strategia aziendale in cui ancora si dibattevano questi imprenditori. Dunque io dico due parole. Die Tatsache, dass zunächst mal, als das neue Fabrikgebäude gebaut wird, 1867, die Hälfte der Webstühle noch im Handbetrieb vorgesehen ist, die Hälfte mechanisiert ist, zeigt deutlich, dass die Strategie noch nicht eindeutig festgelegt war, dass man sich über die jeweiligen Vorteile noch nicht so im Klaren war. Im Übrigen waren am Anfang, und das würde ja auch den deutschen Beispielen entsprechen, die Schwierigkeiten enorm, die bisher verlegten Spinner und Weber überhaupt mal an regelmäßige Arbeitszeiten zu gewöhnen, weil die während der Erntezeit wochenlang überhaupt nicht aufgetaucht sind in der Fabrik. Und man könnte natürlich sagen, dass die Zentralisierung, die 1867 eintritt, der Versuch ist, jetzt diese Probleme auch praktisch mit einem Mal zu lösen. Aber er sagt, so einfach, so rational lässt sich das, wie man von außen her beurteilen könnte, hat sich das dann in Wirklichkeit nicht abgespielt. Grazie. Non solo. I telai a mano a domicilio, che lavoravano per la ditta, non furono eliminati. Quelli a domicilio, eh? Erano 600 nel 1868 e ancora 480 nel 1881. E continuarono a essere utilizzati fino al 1897, benché diminuissero progressivamente di numero nel corso degli anni. La tessitura a domicilio assumeva perciò il ruolo di fabbrica di riserva, se si può dire così, in grado di assorbire con una certa elasticità eventuali improvvisi aumenti o diminuzioni della produzione e della domanda, naturalmente. Soprattutto, però, la tessitura a domicilio consentiva ai caprozzi di evitare un'immobilizzazione eccessiva di capitale fisso, perché spesso i telai a mano erano proprietà degli stessi tessitori. Beh, io lo dico in fretta. 1868 gibt es noch 800 verlegte Handweber mit Webstühlen zu Hause, jetzt bezogen auf die Zahl der Webstühle, 1881 immer noch 480 und der letzte verschwindet erst 1897. Er sagt, das ist praktisch die Reservefabrik, die natürlich dem Unternehmer, und das ist ja wohl bekannt, erlaubt, mit einem Minimum an fixem Kapital auszukommen und das Risiko bei Konjunkturschwankungen auf die verlegten Handweber abzuwälzen. L'investimento tecnologico era dunque visto come qualcosa di molto rischioso, specie sul piano finanziario, a tal punto che non ci si sentiva di troncare completamente i legami con le tecnologie più arretrate e con i rapporti di produzione che queste tecnologie arretrate esprimevano. Questa sfiducia, o anche possiamo dire paura, nei confronti del nuovo, non era del tutto ingiustificata. E spieghiamo perché. Sebbene infatti uno dei proprietari della ditta si recasse in quegli anni in Svizzera, a Rüti, presso la nota fabbrica di Gasparo Negger, per apprendervi la più avanzata tecnologia tessile e i migliori principi di amministrazione aziendale, e sebbene Honegger, fornitore dei telai meccanici, preparasse un progetto analitico della nuova tessitura e fornisse anche alla Caprozzi montatori di macchine e capi operai, nonostante tutto ciò, i primi tempi della meccanizzazione della fabbrica di Albiate produssero effetti che non è esagerato definire tragicomici. Talvolta le macchine rimanevano inattive perché si era incapaci di metterle in funzione. I telai meccanici davano una produzione inferiore a quella dei telai a mano e addirittura in costante diminuzione. Un altro esempio, la moderna caldaia a Koch che era stata installata, tra l'altro dai fratelli Sülzer, sì, che era stata installata, veniva fatta funzionare con segatura di legno invece che con coco. La contabilità aziendale era tenuta con criteri approssimativi se non cervellotici. Venivano assunti molti più operai del necessario, operai che si aggiravano smarriti per lo stabilimento senza sapere bene quale fosse il loro compito. Le tariffe dei cotting erano fissate a livelli troppo bassi di produttività, per cui gli operai riuscivano a guadagnare di più pur producendo di meno rispetto al telaio a mano. La disciplina interna di fabbrica lasciava parecchio a desiderare e i lavoratori si permettevano, ad esempio, canti in coro di irrisione nei confronti dei padroni, che dal canto loro non sapevano quale atteggiamento tenere verso la manodopera. Quando poi i caprotti decisero di stringere i freni dal lato disciplinare e decisero di richiedere dagli operai una dura disciplina e il massimo possibile di produttività, i lavoratori opposero una sorda resistenza. Questo quando era? Questo appunto negli anni dal 68 ai primi anni 70, opposero una sorda resistenza. Soprattutto le ragazze operaie si ribellavano alla volontà dei loro genitori, che le volevano appunto mandare in fabbrica i genitori, e si rifiutavano di farsi assumere in fabbrica fingendo, secondo i caprotti, malattie inesistenti. Oppure, incapaci come erano di inseguire i nuovi ritmi produttivi, buttavano il filato di cotone che non riuscivano a tessere nelle latrine dello stabilimento. Certo, con il passare del tempo la situazione si normalizzò. Ricordiamoci che stiamo parlando di un'impresa ancora oggi esistente. E i padroni impararono a fare i padroni e gli operai a fare gli operai. Tuttavia, l'infelice esperienza iniziale dei caprotti non era probabilmente né isolata né eccezionale. Dunque, io adesso spiego in due fasi. Die Anfangsschwierigkeiten bei der Umstellung am 67, 68 waren enorm. Man ist zum Beispiel in die Schweiz gefahren zu dem Hersteller von zu Sulzers Dampfmaschinen und zu Honecker, der die Webstühle, mechanischen Webstühle herstellte. Der hat sein technisches Personal runtergeschickt. Das stimmt. Ja, umgekehrt. Ne, Honecker hat die Webstühle hergestellt. Ja, ja, sicher. Also das war sogar ich. Und der hat sein Personal nach Italien geschickt. Aber es dauerte enorme Zeit, bis das überhaupt funktioniert hat. Am Anfang haben die mit den Handwebstühlen in den ersten zwei, drei Jahren mehr produziert als mit den mechanischen Webstühlen. Und die Dampfmaschine hat monatelang nicht funktioniert, weil sie den Koks nicht rechtzeitig bestellt haben. Also es fehlte vorne und hinten an der Koordination. Die Arbeiter haben sich zunächst gedrückt. Akkordlohn war zu niedrig angesetzt offenbar, sodass kein Anreiz entstand und die Leute in der Fabrik rumgelaufen sind, ohne wirklich zu arbeiten. Er sagt, das erste Mal muss, die Unternehmerfamilie hatte eine chaotische Buchführung. Er sagt, also die ersten 5 bis 6 Jahre sind draufgegangen, damit, dass die Unternehmer lernen mussten, wie man den Unternehmer spielt und die Arbeiter lernen mussten, wie man sich in einer modernen Fabrik verhält. Lokale Frage dazu. Nein, das ist nur per sapere se centralizzata è solo la tessitura poi in questo nuovo edificio del 67. Sì, rimane sempre una tessitura, era una tessitura prima, adesso è una tessitura attivata e meccanica. No, prima era una tessitura, i filati li comprava da altre aziende, era una tessitura. Da nur eine Weberei, diciamo, also auch später noch das Garne gekauft. Da dove lo compravano questo? I filati? Da filature meccaniche, sì, italiane per lo più. Con gli italiani Spinnereien, mechanisierten Spinnereien. Aber wenn das ganz schlecht ist, dann funktionieren die Maschinen auch. Ja. Lui dice che se la filanda non vende i filati giusti, allora la tessitura non può funzionare. Ma questo non era il problema. Cioè, la materia prima. La materia prima? Tu dici che... Non direi di no, nel senso che appunto i tessuti erano piuttosto di basso livello, quindi anche se i filati italiani non erano eccezionali, andavano abbastanza. Das Gewebe in jedem Fall war von relativ niedriger Qualität sodass nur das Problem ist, dass man ein relativ schlechtes Tag am Handwerk und Fuß bewegen kann, aber auf Maschinenführung nicht. Lui dice che su un telaio a mano tu puoi lavorare anche filati di bassa qualità, mentre telai meccanici richiedono filati di una certa qualità, mettiamolo così. Dice non è il problema della finezza del filo, ma della sua, come si dice, elasticità, resistenza. Ma dalle mie fonti non risulta mai che i caprotti siano lamentati del... Sì, che abbiano perlomeno individuato uno dei principali problemi nella qualità dei filati che utilizzavano. Vabbè, andiamo avanti. Scusa, volevo dire una cosa, volevo citare, ci sono questi ragazzi che sono arrivati, che sono probabilmente, non so ripetere tutto dal professore. Ecco, è una classe di un istituto di Trento che evidentemente è formata dal fatto che esisteva questo seminario sul tema che a loro probabilmente interessa, che è quello dello sviluppo tecnologico e dell'organizzazione del lavoro, chiave storica, ha pensato di venire a far qui la sua lezione. Forse tu potresti in due parole dire brevissimamente, oppure lo dico io che faccio anche prima, lo spieghi in modo meglio. Forse è chiaro questo, no? Questo è un incontro, come vedete, di pochissime persone, in parte italiane, in parte maggiore tedesche, che sono tutti specialisti molto qualificati su questo specifico problema che ho appena detto. Infatti non sono qui a fare delle conferenze a nessuno, infatti come vedete non c'è praticamente pubblico, no? Sono qui a lavorare tra di loro per mettere a confronto le rispettive informazioni e sapienze che hanno sopra questo argomento, in modo da fare procedere, diciamo così, fare progredire la ricerca sopra questo argomento. Quindi voi siete venuti in una specie di laboratorio di ricerca storica, perché anche per fare la storia si fa ricerca quasi in laboratorio, come si fa per fare, non so, fisica o chimica. Questo è un piccolo esempio che a voi può interessare, soprattutto dal punto di vista economico. State partecipando un po' dall'esterno a un'officina che però è di storici che cercano di lavorare in questo modo. Quindi in questo senso non capirete forse tutto, perché naturalmente il livello qui non tiene conto delle premesse, eccetera. Prendetela come un'esperienza di lavoro, insomma, per capire che anche la storia che imparate nella scuola, prima di arrivare a voi, deve essere tutta elaborata e preparata un po' in questo modo. Normalmente lo si fa individualmente ogni studioso per sé, invece noi come Istituto Storico Italo-Germanico cerchiamo di mettere a disposizione le nostre culture per favorire l'incontro tra studiosi individuali, in modo che mediante il confronto collettivo tra di loro possa funzionare tutto meglio e ci possa essere un progresso maggiore. No, questo non è molto chiaro. Romano che sta parlando su organizzazione del lavoro e sviluppo tecnologico dell'industria tessile lombarda fino alla prima guerra mondiale, anche se il titolo è un po' diverso, e l'idea è che lui mi dice, come vedete sta parlando in italiano, il professor Hertner invece che è dell'Istituto Universitario Europeo di Firenze traduce di tanto in tanto per i tedeschi, perché purtroppo il problema della lingua è un problema comune a tutti. Poi dopo ci saranno le altre lezioni e ogni tanto si interrompe per farsi per bere i caffè e per fare delle discussioni. Tutto questo è ormai una sera, ma voi la prova è a breve, suppongo. Tanto che voi vi rendete conto qual è il corso. Abbiamo cominciato a venire a mezzogiorno e siamo andati avanti. Quindi, chiaro? Bon. Scusatemi, ma... Sì. Grazie della tua introduzione così gentile e andiamo avanti. Sì, vai. Allora, se per molto tempo la storiografia italiana non ha sottolineato a sufficienza le difficoltà del passaggio dalla manifattura alla fabbrica meccanizzata, forse è perché mancavano gli archivi d'impresa. Queste, secondo me, sono le uniche fonti dalle quali possono emergere i problemi concreti dell'avvio dell'industrializzazione. Dicevo sempre, dicevo prima, la realtà quotidiana dell'industrializzazione. L'esempio dei Caprotti, che qui naturalmente ho trattato molto sinteticamente, mi pare insomma molto utile e significativo per la migliore comprensione degli ostacoli che incontrano i paesi sottosviluppati, e tale era in fondo l'Italia in quel periodo, dicevo, degli ostacoli che incontrano i paesi sottosviluppati per liberarsi dall'arretratezza. Non è cioè sufficiente la presenza di macchine o anche di capitali, perché si innesca automaticamente un lineare processo di industrializzazione. Quando gli operai sono ancora immersi nella cultura e nell'ambiente dei contadini, e quando il ceto imprenditoriale possiede solo una limitatissima esperienza. In questi casi, agli industriali è necessaria la graduale formazione di particolari doti di costanza, di pazienza, di disponibilità al sacrificio finanziario e anche doti, se vogliamo chiamarli così, di notevole spregiudicatezza in fatto di rapporti umani, in particolare nello spremere dai lavoratori tutto quello che possono dare. Nel caso di Caprotti e di tanti altri industriali italiani, questo processo faticoso ebbe esito felice, ma non possiamo dimenticare le enormi difficoltà oggettive e soggettive che hanno frenato e frenano nei paesi sottosviluppati i progressi tecnologici e organizzativi delle imprese, a tal punto che oggigiorno esistono nel terzo mondo paesi con una straordinaria abbondanza di capitali, frutto ad esempio dell'esportazione di petrolio, e dotati di stabilimenti modernissimi, che tuttavia non riescono a far funzionare adeguatamente. E del resto, se la tecnologia tessile dell'Ottocento, che era relativamente semplice, creava tante difficoltà agli operai contadini italiani, ci immaginiamo facilmente quanto debba essere traumatizzante il contatto magari di ex beduini del deserto, parliamoci chiaro, siano essi questi ex beduini diventati imprenditori o operai, con l'avanzatissima e plurisettoriale tecnologia odierna. Il secondo esempio che voglio qui illustrare si riferisce al cotonificio bresciano Ottolini, una filatura fondata nel 1882 a Villanuova sul Clisi, in provincia di Brescia e non lontano da Salò. In questa impresa, ancora oggi attiva, tra il 1904 e il 1908, in un periodo cioè in cui l'industria cotoniera navigava a gonfie vele, accaddero avvenimenti singolari. Benché alla vecchia filatura di self-acting fosse stato appena aggiunto un nuovo reparto di moderni fusi ring, la produzione si manteneva bassa e soprattutto i costi di produzione aumentavano in modo impressionante, mentre il salario medio operaio si elevava a dismisura. Sembra un tipico caso di cattiva gestione, e difatti la società ritenne responsabile di questa situazione disastrosa il direttore tecnico tale Giovanni Comolli, che assunto nel 1904 fu appunto licenziato nel 1908. Il direttore tuttavia si ribellò al licenziamento, da lui ritenuto ingiusto, e ne nacque una vertenza che fu sottoposta al giudizio di tre arbitri. sorprendentemente, l'arbitrato si concluse a favore dell'ex direttore, che ricevette un indennizzo di 35.000 lire, per appunto per questo licenziamento ingiusto. Nella loro sentenza, gli arbitri non negarono il pessimo andamento dell'azienda, ma ne attribuirono la colpa alla società, che non aveva prestato la dovuta attenzione alle continue, insistenti e allarmate segnalazioni del direttore in ordine al problema della manodopera. Di che cosa si lamentava il Comolli? A Villanuova, scriveva questi in una lettera, come in tante altre località, la manodopera è formata in gran parte da operai avventizi, i quali entrano negli stabilimenti in autunno per uscirne in primavera. Questa mancanza di stabilità, che si riscontra più comunemente nella donna, porta all'industria un danno di cui non è facile calcolare l'entità, ma che certo è molto grave. È sempre il direttore, no, che parla. Anzitutto non è possibile allevare operaie provette e abili ad ottenere una produzione regolare e perfetta. Poi, nel timore di dover tenere ferme parte delle macchine per tutta l'estate, quindi addirittura c'era questo rischio di tenere ferme le macchine dell'azienda, si è obbligati ad accettare durante l'inverno un forte numero di avventizie, delle quali in primavera rimane solo il 30% circa. A questa gente che si rinnova ad ogni volgere di stagione bisogna aggiungere necessariamente un maggiore numero di assistenti e sorveglianti, dove ne basterebbero solo la metà. Ne viene di conseguenza una spesa inutile che grava fortemente sul costo di esercizio industriale. Lo spiego adesso? Come vuoi, sì. Das ist der Fall, der in der Kurzfassung schon erwähnt wurde, diese Spinnerei Ottolini, deren Direktor 1908 entlassen wurde, nach vierjähriger Tätigkeit, weil das Unternehmen vor schweren Kostenproblemen stand. Es wurde ihm aber von einem Schiedsspruch von drei Fachleuten, die einberufen wurden, hat entschieden, dass es nicht die Schuld des Direktors, sondern die Schuld des Unternehmens an sich ist, dass das Problem schon bestand, ehe dieser Direktor eingestellt wurde. Und dass der Direktor in verschiedenen Fällen die Unternehmensleitung auf die Probleme hingewiesen hat. Die Probleme bestanden darin, dass die Mehrzahl der weiblichen Arbeiter nur von Herbst bis Frühjahr tätig waren, dass nur 30% bei Einbruch der landwirtschaftlichen Saison im Frühjahr überhaupt blieben in der Fabrik. Die anderen haben sich empfohlen und dass aufgrund dessen natürlich im Winter, um eben diese 30% zu garantieren, immer zu viele Leute eingestellt wurden und dass auch das Kontrollpersonal entsprechend überdimensioniert war. Wir haben angefangen als Nierenspinner und haben dann umgestellt auf Ring. Osservava poi che per formare una filatrice passabile occorrono 6 mesi. Per una buona occorre almeno un anno. E si tenga presente, aggiungo io, che il lavoro di filatura sembra che fosse molto più semplice di quello di tessitura. L'unica soluzione sarebbe stata, per il direttore tecnico, la costruzione di abitazioni che permettessero l'immigrazione di famiglie intere che vivessero esclusivamente del loro lavoro nello stabilimento, cioè famiglie operaie. Famiglie intere, va sottolineato, non singole operaie pronte a lasciare la fabbrica per recarsi a lavorare nei campi. Il dormitorio per operaie, che già esisteva, non era un buon rimedio e anzi dava, secondo il direttore, il maggior contingente di instabilità. Il dormitorio appunto significa semplicemente le camerate dove queste ragazze. Certo, qui abbiamo di fronte un'impresa che durante l'inverno era costretta ad assumere un centinaio di operai di scorta per averli pronti, ammaestrati, quando si verifica la deficienza nella successiva primavera. Operai che, secondo sempre le parole del direttore, costano e non producono. È un'impresa, dicevo, in critiche condizioni. Tanto più critiche se si pensa che le vecchie macchine di filatura erano in pessimo stato di manutenzione, che non di meno mancava un'officina di riparazione e che infine lo stabilimento Ottolini era noto nell'ambiente cotoniero con il soprannome di vecchia baracca. Comunque, ripeto, stiamo parlando di un'impresa che è ancora oggi attiva, tra l'altro una delle poche imprese cotoniere che ancora agisce in Italia, non è stata spazzata via dalla crisi. Nonostante però la settantina di lettere scambiate su tali argomenti tra il direttore e la società, quest'ultima non prese alcun provvedimento e avviò con decisione la costruzione di case operaie, con curiosa incoerenza, solo dopo il licenziamento del direttore. Bisogna ammettere che gli arbitri mostrarono una particolare benevolenza nei confronti delle tesi del direttore, come pure verso il suo atteggiamento straordinariamente umanitario per la manodopera. Il Comolli, ad esempio, era molto preoccupato per la condizione di salute degli operai, di cui chiedeva informazioni al medico del paese. Intendeva inoltre eliminare l'insalubre ambiente di lavoro della sala di filatura, ammorbata, secondo la sua descrizione, dal tanfo insopportabile dei cessi, addossati proprio alla sala, e dal caldo insopportabile e dalla polvere prodotta dalla lavorazione del cotone. Egli auspicava invece un ambiente di lavoro che definiva sano, simpatico e igienico, anche per persuadere gli operai a prolungare il loro periodo di permanenza in fabbrica. Infine il Comolli si rifiutava, nonostante le pressioni del Consiglio di amministrazione, di disdire il concordato concluso nel 1903, concordato accordo con gli operai, che stabiliva un carico di lavoro per gli operai loro favorevole. Un manager quindi dal volto umano. E anche per questo motivo, per il fatto appunto che fosse dal volto umano, ritengo che forse Cotonificio Ottolini non aveva tutti i torti ad essere insoddisfatto del suo direttore. È probabile che i deludenti risultati produttivi dell'impresa non fossero causati solo dall'instabilità della manodopera, e forse anche che un atteggiamento più deciso, più freddo, inesorabile addirittura del direttore verso gli operai, avrebbe potuto migliorare la situazione dal punto di vista del capitale, naturalmente. Quest'altro tipo di atteggiamento, cioè deciso, freddo e inesorabile, fu forse quello che in seguito si impose al Cotonificio Ottolini, se è vero, come mi hanno riferito, che in quel cotonificio non era raro vedere operai presi letteralmente a calci dai capi. Poiché però la società si decise, dopo 4 anni di petulanti insistenze del Comolli, a realizzare finalmente il progetto di case operaie richiesto proprio dalla stessa persona che era stata calciata come un incompetente, sembra chiaro che il problema della manodopera esisteva realmente, anche se è difficile precisare in quale misura ciò abbia pesato sul vertiginoso aumento dei prezzi di Fafon, come dicevano allora. Il caso del cotonificio Ottolini è comunque interessante per almeno 3 motivi che qui tratterò brevemente. In primo luogo, rivela il tallone di Achille, o perlomeno la presenza in certe zone della Lombardia. Rivela, dicevo, il tallone d'Achille di una delle basi sociali e delle basi portanti dell'industria cotoniera in Italia, anzi di uno dei fattori che avevano favorito il suo stesso sorgere, e cioè l'utilizzazione estesa di operai contadini. Gli operai contadini potevano essere retribuiti al di sotto del minimo vitale, e quindi molto al di sotto di quanto venivano retribuiti gli operai inglesi, ad esempio, perché ritraevano parte dei loro mezzi di sussistenza dal lavoro dei campi, e quindi l'industriale poteva permettersi di pagare solo il sovrappiù, in sostanza. Era un grande vantaggio per l'imprenditore, che però, come abbiamo visto, veniva talvolta scontato con la grande instabilità di questa manodopera, in continua oscillazione tra lavoro industriale e lavoro rurale. In secondo luogo, questo è il secondo punto, questa instabilità, sempre fastidiosa, ma in un certo senso fisiologica e tollerabile in presenza di bassi livelli tecnologici, diventava perniciosa e deleteria nel momento in cui l'evoluzione tecnica, anche in una singola impresa, avanzava rapidamente. Non è un caso, secondo me, che al cotonificio Tolini gli effetti della precarietà operaia si manifestassero in modo particolarmente grave proprio all'indomani dell'apertura di una nuova moderna filatura. Proprio all'indomani di questa apertura. Si ha allora l'impressione che l'investimento tecnologico deve fare i conti anche con la tipologia economico-sociale della forza lavoro impiegata. Modelli teorici di efficienza tecnologica, di organizzazione del lavoro e dell'impresa, di produttività operaia, diventano inefficaci allorché si abbia di fronte un proletariato di fabbrica immaturo. Immaturo non tanto e non solo sul piano professionale, che sarebbe in fondo risolvibile, non so, con un corso interno o con un corso professionale, ma immaturo soprattutto sul piano sociale. Un proletariato, cioè, che non è ancora completamente proletariato di fabbrica, è invece una ibrida fusione di due figure sociali: il contadino e l'operaio. Non tanto ricco da poter fare solo il contadino, cioè non ritrae tanto dalla terra da poter fare solo il contadino, e non tanto povero da essere costretto a fare solo l'operaio, con il risultato che non sapeva svolgere con vera perizia né l'uno né l'altro lavoro. Perché, come sappiamo, anche l'agricoltura, soprattutto nella zona dove si è sviluppata l'industria cotoniera, era a livelli tecnologici arretratissimi, anche di competenza da parte di... quindi anche i contadini erano inesperti. Io direi che forse mai come in questi casi ci si accorge che l'industrializzazione è veramente un processo sociale, non un sinonimo di storia della tecnica, non un insieme poderoso di raffinate elaborazioni econometriche sui dati numerici degli investimenti di capitale in impianti. Inutile investire, dire perché non si è investito. Si è investito tanto, una certa cifra di capitale, quanto ha reso? Perché ha reso poco l'investimento tecnologico in questo caso, no? È il problema dei paesi sottosviluppati, questo. Cioè dei paesi che devono passare dal sottosviluppo allo sviluppo. Il terzo motivo di interesse che scaturisce dalla vicenda che ho succintamente trattato riguarda le case operaie. Ecco una nuova dimostrazione, è insospettabile perché proviene dalle fonti interne di un'impresa, che il cosiddetto paternalismo aziendale, al di là di tutte le sovrastrutture ideologiche di cui fu ammantato, altro non era che un tentativo di creare artificialmente le condizioni sociali di base perché l'operaio potesse essere inserito agevolmente all'interno di un processo di sviluppo tecnologico e di organizzazione razionale del lavoro. Il lavoratore stabile, attivo e fedele era l'obiettivo degli imprenditori cotonieri italiani e nello stesso tempo un prerequisito indispensabile all'ulteriore crescita del settore. In questo senso, il paternalismo padronale, diffusissimo tra i cotonieri, e in particolare manifestatosi appunto attraverso la costruzione di case operaie, può essere considerato, questo sì, uno degli investimenti più fruttiferi e indovinati di questo ramo produttivo. Può essere considerato un sistema intelligente di sopperire alle lentezze, alle debolezze e alle contraddizioni che segnavano in Italia la formazione di un'autentica società industriale. Grazie. Grazie a te. Fast kurz zusammen, was Roberto Romano jetzt noch gesagt hat. Die Lösung, die dieser entlassene Direktor vorgeschlagen hat, war die Stabilisierung der Arbeitskraft. Das heißt Einstellung von Familien und nicht von jungen Frauen nur und die zur Verfügungstellung von Werkswohnungen, der Bau von Werkswohnungen. Also praktisch um diese Arbeitskraft auf längere Frist zu stabilisieren und der Fabrik zu erhalten, zu gewinnen. Das wurde aber erst eingeführt, dann die Häuser wurden erst gebaut, nachdem der Direktor entlassen worden war. Er hat allerdings eine substanzielle Entschädigung bekommen, die ist ihm von dieser Kommission zugesprochen worden. Und er sagt, die Folge aus diesen zwei Fallstudien sind praktisch in seinem ist dreifach. Drei Folgerungen sieht er aus diesen beiden Fallstudien. Erstens, die Achillesferse der Industrialisierung dieses oberitalienischen Typs in der Textilindustrie ist das Problem, dass man es mit Arbeitern zu tun hat, die noch bäuerliche Wurzeln haben, die gleichzeitig Bauern sind. Operaio contadino, das heißt der Arbeiter, der zugleich Bauer ist. Was für den Unternehmer der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts natürlich den Vorteil hatte, dass er diese Leute zu Löhnen einstellen konnte, die unter denen lagen, die normalerweise hätten gezahlt werden müssen. Die also unter Umständen nicht einmal das Existenzminimum dienten, denn jederzeit, dieses Einkommen wurde ja von den Arbeitern durch ihre weiterhin vorhandene agrarische Tätigkeit, Nebentätigkeit oder Haupttätigkeit, darüber kann man sich jetzt streiten, ergänzt. Zweitens, man müsste eben in der Wirtschaftsgeschichte nicht nur praktisch auf die Investition als solche, als Summe investierten Kapitals schauen, sondern sich auch überlegen, ob die Investition zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt die jeweilige Beschaffenheit der zur Verfügung stehenden Arbeitskraft berücksichtigt hat, ob sie der entsprochen hat. Das heißt also praktisch, ob die Produktionsfaktoren komplementär waren oder nicht, so könnte man sagen. Denn in diesem Falle handelt es sich eben, so wie er sagt, um ein unreifes Fabrikproletariat, eine hybride Kombination aus Bauer und Fabrikarbeiter, mit all den Übergangsschwierigkeiten, die er hier illustriert hat. Es ist also nötig, die Industrialisierung als technischen und als sozialen Prozess zu begreifen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da alle zustimmen würden. Drittens, der Paternalismus, so wie er sich äußert im Bau von Werkswohnungen, ist ein Versuch praktisch, und so muss er gesehen werden, nicht als Menschenfreundlichkeit in diesem Sinne, sondern als ein Versuch schlicht, die sozialen Basisbedingungen für eine rationale Arbeitsorganisation herzustellen, die Gesellschaft zu diesem jeweiligen Zeitpunkt in dieser Form noch nicht zur Verfügung stellen konnte. So, das war's. Verständnisfragen, wenn nicht, dann würde ich sagen, die eigentlichen Diskussionen, die wollen wir dann auch nachher verschieben. Ja, bitte. Zwei Verständnisfragen. Einerseits möchte ich wissen, wie viele Frauen beschäftigt waren in der Anfangsphase. Zweitens, ob die beiden geschilderten Unternehmen isoliert lagen. Ja. Ich habe auch eine Verständnisfrage. Jetzt, ja, du, mal, ich nehme dazu gleich, kann das beide werden. Ja. Wie steht es mit der Reise der Unternehmen? Ja, die hat er abgestellt, das hätte ich vielleicht übersetzen müssen. Das Problem ist nicht nur das Problem der Arbeiter, sondern auch das Problem der Unternehmer natürlich. Ich meine, das muss man fairerweise sagen, er hat es gesagt, ich habe das nicht so hingebaut, oder haben wir das im Ausland vorher, oder haben wir das auch von Büchern, oder? Tre domande. Heidrun Homburg ci chiede qual era la percentuale degli operai, delle operaie femminili? All'inizio e poi in uno stadio più progredito di questa fabbrica, dell'ultimo caso, della Ottolini, magari anche della Capotti. Seconda questione, queste due fabbriche, casi che tu hai illustrati qui, erano isolate, cioè lontane da insediamenti centrali, da paesi, da città, stavano così nella campagna isolata o no? E Acqua Spaolini vuole sapere se questi imprenditori, cioè nel primo caso i Caprotti, tu hai anche ne hai parlato in un caso specifico, oppure anche questi Ottolini, non so, è una società per azioni? A questo punto sì, è una società per azioni. Ma in ogni caso, se loro hanno avuto una specie di apprendistato all'estero e i contatti all'estero, come erano? Perché lui dice, se l'operaio era immaturo, magari lo era anche l'imprenditore. Sì. Quello che tu hai detto in un certo modo, sì. Ho detto. Ma la prima domanda, io adesso non ho le statistiche per dire con precisione la percentuale in queste imprese della manodopera femminile. Comunque, in linea generale, direi, mi pare di ricordare, sia per la Caprotti che per il cotonificio Bresciano Tolini, che il lavoro appunto femminile e minorile, diciamo, mettiamo tutti insieme, perché ecco, cioè ragazzi e donne coprissero appunto dal 70 all'80% perlomeno della 50-80% der Arbeitskraft waren entweder Frauen oder und Minderjährige. Und ich meine, in der Phase, das heißt ja immer, die Mechanisierung, besonders beim Weben, ist ausschließlich das Versanken der weiblichen Arbeitskraft. Und ein gelernter oder ein männlicher Weber ging nicht in die Fabrik. Und ist diese Strategie, also das ist der Hintergrund der Frage. Dice che c'è una tesi che dice che la meccanizzazione della tessitura è dovuta esclusivamente al lavoro femminile, perché i maschi non andavano in fabbrica, non volevano farsi centralizzare. È vero o no? Tu cosa dici? Beh, non so, si esprime un'idea generale. È una ipotesi, tu la condividi o no? Dico, nel caso concreto, voglio dire, dell'industrializzazione cotoniera italiana, ci può anche essere questo aspetto, anche perché quando io parlo di operaio contadino, in realtà dovrei parlare di operaia contadina, ecco, perché... Appunto per questo, perché quando c'è la disgregazione della famiglia rurale, e il passaggio di una parte dei componenti in fabbrica, tendono sempre a essere le donne a essere espulse da questo nucleo rurale e da questa famiglia rurale ad andare in fabbrica, mentre gli uomini sono più attaccati, in effetti rimangono più attaccati generalmente al lavoro agricolo. Quindi in effetti appunto l'ipotesi die Mehrzahl der Frauen ging in die Fabrik, weil die Männer dann die Landwirtschaft weiter betrieben haben, in diesen Fällen. So sieht es jedenfalls. Man kann also nicht sagen, dass die Männer nicht in die Fabrik gingen, weil sie diese Arbeit nicht wollten, sondern weil das eher der traditionellen Arbeitsteilung entsprochen hat. Traditionell in dem Sinne, dass die Frau ergänzt hat. Ja, und sie hat eben das Einkommen dadurch ergänzt auf eine nicht traditionelle Art und Weise. Ne? Zu diesen Zahlen, okay. In welche Größenordnungen geht es hier eigentlich? In deutschen Papier kommt es nicht vor. Wie viele Arbeiter hat es? Welche Bereiche, allora, queste fabbriche? La Caprotti? Cambia nel periodo. Ovviamente, das wechselt nach dem Produktionszyklus. Comunque, centinaia di operai. Mettiamo negli anni 80, negli anni 70. No, meno, no. Sono arrivati a passare. 200-300 operai, diciamo, aveva 200-300 operai. Era una media azienda, Lombardia, sì, Brianza. Le altre domande? E l'altra era se una persona era decentrata o a casa. No, no, ciascuno. No, I would have liked to give maybe an answer, but maybe we can turn for this discussion about the problem of the transformation from masculine manpower to feminine. That is. We could discuss that afterwards, after your contribution, okay? Because you have other cases, Yes. Però c'erano ancora due domande. Sì, se erano vicino a centri grossi abitati, una era. C'erano, questi stabilimenti erano in posti isolati, mi è stato chiesto. Alle beide Fabriken waren relativ isoliert. Qualcuno mi ha chiesto così, no? Sì, era autonomo. Poi la sua domanda quanto agli imprenditori, il loro apprendistato da lei. Vabbè. Allora che faccio? La stella, tu volevi sapere la cosa. Io che faccio, scusa. Rispondo o no? Sì, sì, no. Quello che tu dici, lo sappiamo. Sul fatto che ci sono delle difficoltà per quanto riguarda l'azienda ad avere una manodopera disposta a lavorare, e le descrizioni che tu riporti relativamente ai primi due anni sono disastrose, no? Perché mi sono infilate nelle linee, nelle latrine. Sì. Ma qual è l'andamento dal punto di vista del bilancio di questa società? È in perdita, è in attività, perché l'impressione che se ne ha è che sia allora un andamento totalmente in perdita. No, perché la società, rispondo subito a te. Come mettiamo insieme queste cose? Perché la società sai come si salva? Con la lavorazione a domicilio, proprio con il vecchio sistema, sì. mantenendo il vecchio sistema della lavorazione a domicilio. E da lì appunto che riesce. Perde la tessitura meccanica e riesce a guadagnare il più possibile la tessitura a mano. Gut. Die Frage war, wenn das in den ersten Jahren der Umstellung nach 1867 so katastrophale Ergebnisse gab, also diese Umstellung so schlecht lief, hat dann das Unternehmen insgesamt in diesen Jahren in die roten Zahlen geraten oder nicht? Und er sagt nein, denn der Sektor, der traditionelle Sektor, der Verlag, der ja weiter betrieben wurde, zumindest in den ersten 15 Jahren, der hat während der Zeit eben noch die Gewinne abgeworfen, die es ermöglichten, diese schwierige Übergangszeit zu überstehen. Ne? Ja. Ich würde vorschlagen, jetzt machen wir weiter. Und weitere Grundsatzfragen können wir dann anschließend stellen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir überhaupt keine Verständnisfragen stellen, weil ich arbeite immer auch in Grundsatzfragen. Du bist ja der Erste, der solche Fragen stellt. Entweder machen wir eine Diskussion, andere gerade oder nicht. Va detto? Lui dice che queste domande di cosiddetta comprensione normalmente sfociano in domande più generali, ma è lui il primo che sempre fa queste domande. Però molto bene così. Sì, sì, benissimo. Posso rispondere alla questione delle fabbriche isolate? Ma naturalmente, ti preghiamo anche. Ecco. Sono contento, come dicono gli uomini politici italiani, che mi sia stata fatta questa domanda, perché la ringrazio per la domanda che mi ha posto, perché questo tocca uno dei problemi, degli aspetti fondamentali dell'industria cotoniera italiana e in generale dell'industria tessile, La risposta è, erano appunto fuori dalle grosse concentrazioni urbane questi stabilimenti, erano sempre in un ambiente di tipo rurale. Se lei guarda le fotografie, del resto non solo in Italia è successo così, se lei guarda fotografie di stabilimenti tessili italiani dell'Ottocento, lei vedrà queste ciminiere o questi stabilimenti grandissimi e attorno campi, boschi, no? Questo è l'ambiente diciamo in cui sono immersi questi stabilimenti. Quindi in generale tutti questi stabilimenti dell'industria cotoniera si trovano isolati, lontano dai grossi centri abitati in tutta la Lombardia e non solo la Lombardia. Proprio per ragioni che io ho analizzato, tra l'altro, in uno scritto, anche per quelle ragioni, oltre che per la questione della forza idraulica, no? Perché c'è la questione naturalmente di essere non è da trascurare, c'è anche questo problema, questa base sociale di questi contadini che si trovano in condizioni di estrema povertà e teoricamente possono essere disponibili a mandare qualcuno dei propri membri in fabbrica per accrescere le entrate della famiglia. Roberto Romano hat die Frage nach der isolierten oder nicht isolierten Lage dieser Fabriken nochmal aufgegriffen und hat gesagt, also wenn er italienischer Politiker wäre, würde er sagen, ich habe mich selber diese Frage gefreut. Er sagt, das ist eben typisch für die italienische Textilindustrie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, dass sie nicht in den urbanen Agglomerationen, sondern auf dem Land entsteht. Und nicht nur die Baumwollindustrie, sondern das gilt auch für die Lohn- und die Seidenindustrie. Das ist, also er sagt, das ist praktisch der Typ der italienischen Industrialisierung in diesem Sektor, findet eben auf dem Lande. Eine ländliche Industrialisierung, könnte man sagen, statt das jetzt wieder. Also war eben das paternalistische Strategien, wie sie hier geschildert wurden, nur dann also voll greifen können, wenn es in der Tat eine ziemlich isolierte Fabrik ist und kein sonstiger Arbeitgeber. Und offenbar ist das eben in vielen Fällen der Fall. Hat natürlich noch andere Ursachen, eben das Problem der Wasserkraft. Das Land hat keine eigene Kohlevorkommen, Kohle muss importiert werden, kostet dementsprechend viel. Die sogenannten natürlichen Standortprobleme spielen damit eine Rolle und das hängt damit zusammen, dass das hat natürlich zur Folge, dass die meisten Textilbetriebe in Oberitalien am Alpenrand entlang, wo diese Wasserkraft vorhanden ist, dann entstehen. An diesem Saum praktisch. Bene, ti ringraziamo tanto e poi andiamo avanti. Alors ça serait maintenant le tour de Alain Devert. I do apologize first for further linguistical difficulty. I shall give you as I should speak in French. I'm sorry. O in inglese. Preferisco sfortunatamente la mia lingua madre, dunque. Caro mio, ne comprends pas le français, voilà. Je pense que bon. Alors, je voulais vous il faudrait pourtant parler lentement, hein. Assez lentement, parce que je pense que quelques-uns auront des difficultés, hein. Bon, allons-y. Bon, je vous remercie de votre obligeance. Ce que je vous propose ici, c'est une réflexion à partir d'un cas particulier, d'une monographie d'usine, sur les rapports entre l'organisation du travail et la structure technique, au travers de la structure spatiale, la structure territoriale d'une usine. Celle-ci fait partie de l'ensemble Ansaldo, et se trouve être l'usine mère, la première créée par ce groupe, mais peu à peu intégrée dans un ensemble mécanique, métallurgique et de chantier naval, dont elle n'est qu'un des éléments. C'est une usine qui est située sur la côte occidentale de la Riviera génoise et qui produit principalement du matériel mécanique, de mécanique lourde, chaudières marines, en particulier les chaudières Parsons au début du siècle, matériel ferroviaire et pièces pour le chantier naval, un chantier naval qui est à l'origine connexe, adjoint au chantier, puis ensuite qui s'isole dans une nouvelle usine, une nouvelle unité de production dont elle est dépendante. Cette usine reçoit d'abord ses matières premières de l'extérieur, puis ensuite d'une aciérie propre en Saldo, qui est située à quelques centaines de mètres d'elle. Il y a donc, à partir du début du XXe siècle, un ensemble coordonné en amont et en aval, vers l'aciérie d'une part et vers les chantiers navals d'autre part. Production donc de petites séries ou de pièces à l'unité qui correspond à la caractéristique essentielle de cette réalité. Au total, entre 2000 ouvriers au début du siècle et 5 à 6 000 durant la Première Guerre mondiale, mais c'est un cas limite, c'est le maximum de la population ouvrière, le tout sur un territoire qui varie entre 30 000 et 50 000 mètres carrés. Quel est donc le sens que l'on peut donner à une analyse de cet ordre? On pourrait penser à première vue que le dispositif interne de cette usine correspond à une rationalité qui soit immédiatement lisible sur les plans. Or, on peut essayer de voir qu'on a affaire ici à des transformations historiquement marquées dans l'histoire de l'usine en raison d'un certain rapport au sol, au territoire, qui est une chose rare, et d'autre part des contraintes proprement techniques, qui est celle de la production en petite série, voire à l'unité. On est donc, et c'est en cela que la chose peut être intéressante, totalement en dehors de l'ensemble des transformations qui affectent la mécanique de série au début du siècle. Et à cet égard, nous sommes dans un cas de relativement faible développement technologique. La structure du marché, la structure de la demande, qui est inchangée, l'Ansaldo continuant pendant toute la période de l'entre-deux-guerres à produire, soit pour des navires qu'il construit, soit pour des navires qui sont construits ailleurs, soit enfin pour un matériel ferroviaire qui de toute manière se fait en relativement petite série. Si l'on regarde cette évolution, on constate un certain nombre d'éléments. La première, c'est la permanence globale de l'espace affecté à la production. Si vous voyez les plans que je vous ai fournis, il y a une permanence générale qui existe encore à l'heure actuelle de l'ensemble de l'usine. Il n'y a aucune réorganisation du parcellaire global de l'usine. Ce parcellaire est défini par le site lui-même, site coincé, si vous prenez la carte de 1897, entre la mer d'une part, au sud, à l'ouest une rivière, ou un fleuve qui descend vers la mer, et d'autre part, le chemin de fer. On se trouve ici dans un cas de sol extrêmement rare, et l'usine est traversée elle-même par un réseau de chemin de fer qui la coupe en deux. À cet égard, les chantiers navals à Sestri Ponente, par exemple, les chantiers navals à Sestri Ponente sont de la même façon traversés par le chemin de fer, de telle sorte que le problème se repose exactement dans les mêmes termes. Ce sol rare, lié à l'organisation de la production en petite série, explique, détermine cette permanence générale du, euh, cette permanence générale de l'organisation de l'espace. À l'intérieur maintenant de cet espace rare, on peut noter plusieurs éléments. D'une part, l'opposition qui est marquée dès le début entre les espaces de l'administration et les espaces de la production, contrairement à ce qu'on dit souvent des processus de rationalisation du travail, en particulier dans la mécanique, ici on a dès le début une opposition tout à fait manifeste que vous pouvez voir sur les plans. Prenons celui de 1884. Vous voyez le long de l'axe nord-sud, et ce plan-là, ici, une affectation complètement isolée des espaces à l'administration par opposition à la partie usinage qui se trouve très clairement isolée. D'autre part, à l'intérieur de la partie usinage, il y a une relative rationalité du processus productif. Du nord au sud, c'est-à-dire dans cette direction, on a une série de halls rectangulaires allongés en longueur où se succède l'ensemble du processus productif. Tout à fait au nord, fonderie et forge, puis ensuite ensemble des halls qui concernent le tournage, enfin ajustage et montage vers le sud. Axe donc relativement rationnel du point de vue de la mise en œuvre du procès productif. Cette mise en œuvre n'est pas totalement rationnelle puisqu'on trouve souvent des va-et-vient, des isolements. À la fin du siècle, par exemple, la forge va être isolé de l'ensemble du tournage et l'ajustage. C'est que l'ensemble du système fonctionne avec un réseau de transport de double nature. D'une part, un réseau intérieur de ponts roulants à l'intérieur des nefs pour le déplacement d'objets très volumineux et très lourd, d'autre part pour le passage d'une nef à l'autre et de l'ensemble central ici aux ensembles annexes au sud du côté de la mer ou de l'autre côté du chemin de fer, par un réseau interne de traction à écartement réduit de type Decauville qui permet le déplacement. C'est en fait ce réseau orthogonal qui s'intègre à l'intérieur de l'atelier, qui ordonne à la fois l'organisation générale et d'autre part les possibilités de transformation. Troisième remarque, en regardant avec attention la position respective des différents ateliers, on constate en effet des transformations relativement rapides et qui ne correspondent pas véritablement à la logique du cycle productif. Ainsi, les forges qui au début étaient au nord dans cette partie-là, ce qui était logique, on passe du travail modelage forge, ensuite au tournage fraisage, puis ensuite à l'ajustage, vont être isolées. C'est que l'ensemble de l'usine subit des transformations qui tiennent à l'accroissement du potentiel productif, à l'augmentation de la production. On passe de 35 000 m² couverts à plus de 60 000 dans le courant de la Première Guerre mondiale. Et ceci se fait par ajout successif d'ateliers, conquête du sol à l'intérieur de l'usine, fermeture, vous voyez par exemple, à la fin du siècle, un ensemble d'espaces clos qui sont ouverts à l'intérieur de l'usine, ici, ici, ici, qui vont être peu à peu conquis, ensemble d'espaces clos auxquels on affecte une partie de la production mais en fonction des possibilités de cette dynamique historique et pas en fonction d'un cycle productif qui est conçu a priori, d'une rationalité qui est conçue a priori, mais simplement en fonction des gains de place. L'ensemble des textes dont nous disposons montre en effet, de la part de l'entrepreneur, une volonté de gagner de l'espace, de lutter contre l'embarras à l'intérieur de chacun des ateliers, qui est l'élément essentiel, le système de transport lui-même permettant de gagner sur un système qui n'est pas relativement logique ou qui oblige à un certain nombre de, rebroussements. Ainsi, en 1905, par exemple, le programme d'extension que nous avons de l'usine signale cette logique en indiquant qu'il faut l'agrandir parce que les commandes sont là. Ici, remarque fondamentale, c'est une usine où les problèmes de coût pèsent relativement peu car elle produit pour des administrations d'État, pour la marine ou pour les chemins de fer, de telle sorte que ce qui pèse sur la logique de production, c'est beaucoup plus le problème du délai, produire vite, que de produire à coût limité. Donc on peut dire qu'à partir du moment où un nouvel atelier est construit et où il entre en activité, de telle sorte que les délais soient effectivement pris en compte et la livraison effectuée à date fixe, les exigences productives sont remplies. Le coût ici reste secondaire et cette évolution est tout à fait sensible dans ce qui se passe pendant la première guerre mondiale. Ce programme de transformation du début du siècle, deuxième remarque, ne porte pas sur une transformation interne des ateliers, mais simplement par un ajout de nouveaux ateliers et d'agrandissements. Nouvelle tournerie, nouveau petit atelier de fraisage qui se pose à côté de l'autre et il n'y a pas de réorganisation interne. Au niveau de l'atelier, je conclurai là-dessus, les quelques photos que je vous ai indiquées montrent le système d'organisation. D'une part, au niveau des étapes intermédiaires, il y a une organisation des ateliers par type de machine, tournerie, fraisage. Au niveau de la phase finale de la production, les ateliers sont organisés en fonction du produit, locomotive, chaudière, turbine. Dans l'atelier lui-même, le réseau est un réseau orthogonal, caractéristique l'ensemble des machines moyennes, avec une partie centrale libérée, les machines étant en longueur le long de l'atelier pour l'alimentation en électricité qui passe par les murs, la position des ouvriers étant face au mur et autour des machines. Pour la petite tournerie, le problème est exactement le même, sauf qu'on se trouve là en étage et dans des ateliers relativement plus petits. Je conclurai donc sur cette idée. Dominance des axes de transport dans l'organisation de l'espace, un flux rationnel, mais pas totalement en fonction de la rareté du territoire, une opposition organisée dès le début entre les espaces administratifs et les espaces productifs, enfin une polyvalence des ateliers qui fait que la dynamique de l'Ansaldo se produit par densification de l'espace, ajout de machines, plus que par une réflexion logique sur le flux productif et le fait technologique. Merci beaucoup. et on pourrait tout de suite commencer avec les demandes. Les demandes, on les fait en italien ou quoi? Italien, hein. Ha detto che i clienti dell'Ansaldo sono soprattutto lo Stato o le ferrovie dello Stato. Italiano o estero? Sì, italiano, anche l'Argentina, cioè, tutti questi clienti che comprano dopo il 1900 poi anche questi prodotti del heavy engineering, ma si può definire, si può dare un ordine di grandezza dell'importanza delle commesse dello Stato, se eccettuiamo naturalmente il periodo della Prima Guerra Mondiale, che è un periodo straordinario. Nelle vendite dell'Ansaldo in questi anni, diciamo tra il turno del secolo e la Prima Guerra Mondiale, o? Direi di no, per le ferrovie certamente sarà 70-80% sì, delle cose, per la meccanica navale è molto differente perché c'è il problema dell'estero, dunque delle vendite al Giappone, all'Argentina e alla Turchia, fa un bel po'. Il percentuale per la marina militare sarà certamente molto più ampio. Ma il problema è che anche per le commesse estere il problema di prezzo non si pone a livello della struttura interna, perché il prezzo è un fatto di tipo diplomatico da un lato, e poi dipende anche dalle condizioni di realizzazione del contratto. Sì. Vuol dire che è molto più importante fornire la nave a un certo tempo previsto, e dunque questo pone dei problemi di organizzazione di lavoro, di densificazione a ogni costo, e si vede bene che nell'organizzazione del Cotimo, per esempio, della moltiplicazione di nuove officine o sotto-officine, questo problema è decisivo. Loro mettono una nuova officina ai 15 giorni, solo perché hanno una settimana di ritardo. Dunque prendono 10 torni, una mezza dozzina di fresatrici, le mettono qui, anche in ex in vecchie officine, solo perché hanno del ritardo nelle commesse. Dunque è una logica che è molto più quella del tempo che una logica di costo. Ich sagte also, was du vorher bereits angedeutet hast, dass die Hauptabnehmer eben staatliche Stellen sind, nicht nur italienische, sondern auch im Ausland, für Kriegsschiffe, für Eisenbahnmaterial und so weiter. Und dass aus diesem Grund der Preis nicht das Hauptkriterium ist, sondern vor allem die Pünktlichkeit der Ablieferung. Wie lange dauert es, bis ein bestimmter Auftrag abgewickelt ist? Und dass sich daraus zum Beispiel auch die Gestaltung der Akkordlöhne und die Gestaltung des innerbetrieblichen Arbeitsablaufs erklärt. Sì. Io vorrei fare una domanda, posso fare in italiano, no? Una domanda probabilmente c'entra, mi intendo di queste cose. Nel caso dell'Ansaldo, il problema della centralizzazione dell'organizzazione produttiva evidentemente si pone in modo del tutto diverso da come si poneva per il caso dell'industria tessile che abbiamo visto poco fa, nel senso che immagino che lì tutto fosse centralizzato in termini di produzione. Allora la mia domanda è questa: in questo caso le tecniche di organizzazione del lavoro dovevano essere adeguate appunto a un processo di produzione centralizzata. questo tema che per me è estremamente importante della disciplina, intesa in senso largo, che poi sono le relazioni industriali di oggi, il tema della disciplina in questo caso dovremmo trovare delle soluzioni efficaci. Allora io quello che non capisco bene è come mai non ci fosse una circolazione, no? Da un settore produttivo a un altro settore produttivo di queste tecniche di organizzazione del lavoro e di relazioni industriali. Cioè non riesco a capire se, cioè come poteva accadere che in un settore produttivo queste tecniche di organizzazione aziendale ci fossero e in un altro settore produttivo invece non ci fossero per niente. Cosa che mancava? Mancava completamente, mancava, sembrerebbe mancare del tutto la funzione di mediazione, di circolazione fatta, non so, perché è una scienza delle relazioni industriali. Questo vorrei essere. No, io ho parlato del periodo prima della prima guerra mondiale, dove c'è una contrattazione tra una struttura centralizzata dal punto di vista finanziario commerciale. Poi ci sono unità produttive dirette da capo officine e direttore. C'è un direttore per il cantiere navale, c'è un direttore per il meccanico, c'è un direttore, eccetera. Questo non ha molto, o forse si potrebbe dire con un po' di esagerazione, nessun impatto sull'organizzazione del lavoro. Questa centralizzazione è una centralizzazione di tipo burocratico che non influisce direttamente sull'organizzazione del lavoro, dove la cosa che è importante è a livello dell'officina o della squadra il rapporto tra lavoro qualificato e il tipo di remunerazione. Infatti è molto strano di vedere che è solo nel 13 che appare delle domande precise dalla direzione di avere delle tavole precisissime del salario effettivamente versato. Prima c'è arriva o non arriva, poi si fa per il bilancio, si ha dei dati, ma i dati precisi su che cosa è stato fatto per quale denaro, questo Iperone non lo sapeva. Dunque a questo livello il problema, no, finisco per chiarire per tutti, che il problema, chiedo scusa io, il problema è che questo è un lavoro all'unità, questo è un lavoro di valore, dunque c'è una manodopera a un certo livello, 40-50% di operai qualificati, è veramente molto qualificati e infatti non c'è... il direttore non si mischia molto precisamente nel modo di lavorare, dunque queste relazioni industriali in questo senso non esistono. E la funzione personale, diciamo per parlare chiaro, la funzione personale non esiste. Nel fondo, per esempio, quel che è stato descritto o che si dice essere personale non riguarda il lavoro d'officina, riguarda solo il lavoro degli impiegati. Il personale, il lavoro non esiste direttamente come una funzione nella struttura imprenditoriale, nella struttura dell'impresa. Pierangelo Stiera hatte gefragt, warum es eigentlich in einer Zeit, also so ungefähr zwischen Jahrhundertwende und Ersten Weltkrieg, in dem sich in anderen Branchen Probleme der Arbeitsorganisation immer dringender stellen und auch zum Teil gelöst werden, warum es da sozusagen keinen Spillover-Effekt gibt und sich das bei Ansaldo dann eigentlich gar nicht durchsetzt. Und er sagt, das hängt eben damit zusammen, dass eben diese staatlichen Auftraggeber offenbar nicht den Kostendruck ausüben, den andere Kunden ausüben würden und dass hier eben nicht in Serie produziert wird, sondern immer Einzelstücke produziert werden. Tatsächlich, was zentralisiert ist bei Ansaldo, ist eben die Verwaltung, die Finanzen, aber die Unternehmer selbst die Brüder Perrone, die das, die in den letzten 10 Jahren vom Ersten Weltkrieg das Unternehmen leiten, haben kaum einen Überblick über die tatsächlichen Arbeitskosten. Und erst 1913 wird ein Versuch gemacht, sich darüber ganz nüchtern mal ganz mal Bilanz zu das wirklich mal herauszufinden, welches Produkt kostet wie viel Arbeitsstunden zum Beispiel. Ja, das ist aber nichts aus, aber das sind jetzt die Großmaschinen drauf in Europa. Würde ich dire non è un non è un l'ansaldo non è un caso eccezionale. No, no, no. Il heavy engineering nell'Europa occidentale di questi alla no, è un caso tipico. Alla Schneider, allo Creusot funziona esattamente lo stesso. Mm. No, tu devi aspettare. Nee, nee, das ist eben sicher, natürlich diskutieren wir jetzt. Du kannst also gerne deine Frage stellen. Wir diskutieren zu beiden. Ja, jetzt kommt aber erst der Ulrich Wengenroth, dann kommt uns Gauro Coppola und dann kommst du. Der Vorschlag zum Prozedere, weil ja. Im Grunde genommen behandelt das nachfolgende Referat dieselbe Problematik, aber mehr abstrakt. Ja. Problem der Arbeitsorganisation im Maschinenbau. Das Referat von Herrn Bernhard Wagenroth. Deshalb mein bescheidener Vorschlag ist vielleicht dann, das noch dazu nehmen und gemeinsam die 3 Referate diskutieren, wenn man Zeit gewonnen will. Ein konstruktiver Vorschlag, ja. Dann müsste der Oberhead auftauchen. Lui propone che adesso sentiamo il terzo paper e poi facciamo la discussione generale dei 3 paper che abbiamo avuti stamattina, finora. Siete d'accordo? D'accordo? Wären Sie einverstanden, die Frage nachher wieder zu stellen? Potresti fare la tua domanda dopo il prossimo paper? Non si fa niente? No, no, no, no, overhead. Qui. Il caffè si fa dopo il tuo. Chi vuole il...